Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Dalla Società Italiana di Reumatologia in arrivo una nuova app gratuita per i giovani pazienti colpiti da artrite croniche. Si chiama Reuma Buddy ed è stata sviluppata grazie alla collaborazione tra un'associazione danese di giovani pazienti e i giovani della Sir Young che hanno lavorato per renderla accessibile anche nel nostro paese. A Obiettivo Salute ci spiega come funziona la dottoressa Alessia Alunno, ricercatore presso la sezione di reumatologia del Dipartimento di Medicina dell'Università di Perugia e presidente di Sir Young. Reuma Buddy è una app che è stata sviluppata per supportare nella vita quotidiana i giovani affetti da artriti croniche, ma soprattutto per renderli consapevoli della propria condizione, di cosa li fa stare bene, di cosa li può aiutare ad affrontare le attività di tutti i giorni e per facilitare anche il rapporto con il proprio medico, perché tutti questi dati raccolti possono essere estrapolati e inviati via email in previsione della visita medica di controllo. Quindi Reuma Buddy vuole essere un aiuto a quella che noi adesso andiamo a perseguire, che è la gestione olistica del paziente, quindi non solo nell'ambito della visita medica, ma in ogni ambito della sua vita, quindi nella vita quotidiana. Osteoporosi, sottodiagnosticata e sottotrattata. In occasione della giornata dedicata, la campagna Stop alle fratture mette a disposizione un test online per scoprire con un click il proprio livello di rischio. Tutte le informazioni le trovate sulle pagine di Obiettivo Salute. Chip Check Your Pulse. Sembra uno scioglilingua, ma è il nome di un progetto di ALTA, l'Associazione per la lotta alla trombosi e alle malattie cardiovascolari, che vuole insegnare ai ragazzi a sentire il polso e a riconoscere possibili aritmie. A Obiettivo Salute la professoressa Lidia Rotavender, presidente di ALTA. Quando c'è un problema grande da affrontare, molto spesso la soluzione è molto semplice, molto piccola, e questo è quello che è successo quando abbiamo avuto l'idea di insegnare ai ragazzi, incominciando dai ragazzi della scuola media superiore, a sentire il polso, che vuol dire sentire il ritmo del proprio cuore. Questo perché? Perché il ritmo del cuore può cambiare negli anni, perché la fibrillazione atriale è un'aritmia molto pericolosa, molto diffusa, che colpisce soprattutto dopo i 60 anni ma anche prima, e con un gesto semplice come mettere due dita sul polso si può percepire il battito del cuore, sentire se è regolare, e se è irregolare segnalarlo e prendere i provvedimenti giusti. E se avete a cuore la vostra alimentazione, non perdetevi la diretta Facebook oggi insieme a me, il dottor Franco Berrino. Per oggi è tutto, la programmazione di Radio 24 come sempre continua con Melog. Io vi aspetto in diretta Facebook col dottor Berrino e noi ci sentiamo domani a Obiettivo Salute Weekend per parlare di artrite, artrosi e dolori articolari in genere. Buona giornata da Nicoletta.